Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, questa sera introduco il tema dell'arte contemporanea, di cui si parla spesso, molto spesso, più che altro per i valori stellari che alcuni artisti riescono a spuntare, certamente superiori ormai a quelli che potrebbero tenere un Leonardo, un Michelangelo o un Raffaello redivivi. I galleristi e gli artisti incassano, i giornalisti propagandano, i collezionisti speculano, e il pubblico cosa può dire quest'arte al pubblico di oggi? Vuole stupirlo o affascinarlo? E noi pubblico, come possiamo accostarci a questo periodo dell'arte che comunque ci rappresenta? Cerca di rispondere a questa domanda un noto studioso d'arte, docente universitario, Vincenzo Trione, preside all'Università Ulm, dove anch'io ho qualche attività, e che ha scritto l'opera interminabile Arte XXI secolo, pubblicato da Einaudi, 588 pagine, 40 euro. L'opera è decisamente ambiziosa per la mole, alleggerita peraltro da un ricco corredo di immagini, la densità e la ricchezza dei rimandi e dei fili che si intrecciano per cercare di offrire una chiave interpretativa e collegare tante esperienze artistiche del Novecento, spesso molto differenti. Ne nasce un museo impossibile, come scrive lo stesso autore, forse assurdo, addirittura paradossale, labirintico, dilatato, e poi ancora definisce diverso, estremo, paradossalmente antimuseale, aperto. E in questo museo troveremo opere d'arte progettate e realizzate nel XXI secolo. Accostandosi, quelle installazioni ambiziose disegneranno, aggiunge, segmenti di connessioni, palinsesti visionari, laboratori di materie ed immagini inconciliate. In questo museo dominano le opere capitali dunque di alcuni artisti irrinunciabili del Novecento, sono 15, da Kiefer a Kentzig, Palladino, Boltanski, Hinst e tanti altri. Opere prodotte tutte dopo il 2000. Per conoscere e decifrare queste opere affronteremo, scrive l'autore, ipotesi ardite di multimedialità, di intermedialità, di transmedialità e di crossmedialità. In un labirinto senza percorsi ma ricco di suggerimenti, e alla fine troveremo anche 21 parole per il XXI secolo, e una di queste voci, opere mondo, rimanda anche alla letteratura e in particolare ad alcuni autori, per esempio Wallace, Kundera, De Lillo, Roth, Murakami e Oster. Cosa ci dicono questi autori? Sentiamo queste righe per sentire una spiegazione. Portati a considerare i generi letterari non come formazioni fisse, immutabili, lisce, ma come spazi carsici, porosi, impermeabili, muovendosi sulle orme di autori come il Melville di Moby Dick, il Joyce dell'Ulisse, il Musil dell'Uomo senza qualità e il Brock dei Sonnambuli, questi scrittori mirano a saldare epica e romanzo, il respiro lungo della tradizione omerica e il gusto per le discontinuità proprio di momenti significativi della letteratura moderna. Essi perciò recuperano e rilanciano la tradizione dell'epica classica in una forma disgregata e stravolta, non per legittimarsi, ma per spingersi al di là di quella matrice verso forme nuove, sempre più totalizzanti. Lavorano un pezzo alla volta per dar vita a romanzi profondamente discontinui, imperfetti, instabili, opere mondo. E allora chiediamo adesso all'autore di farci da guida in questo museo mondo. Buonasera Vincenzo Trione. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Vincenzo Trione, ci dica un po', come dobbiamo accostarci a questo libro? Servono delle competenze specifiche? Spesso l'arte contemporanea viene descritta e raccontata come un territorio incomprensibile, ermetico, ostile, difficile. Il tentativo di questo libro è quello di provare a narrare l'arte contemporanea. Io sono partito da una antica suggestione, da un libro di Matteo Marangoni che ebbe grande successo dagli anni 20 fino agli anni 60, il cui titolo era Come si guarda un quadro. Io ho provato a interrogarmi su come si guarda l'arte contemporanea, in particolare alcune mega installazioni d'arte contemporanea, cercando di mostrare intanto una serie di riferimenti espliciti, evidenti, ma anche una serie di riferimenti impliciti, il pensiero segreto che sta dietro una serie di opere d'arte contemporanea, accostando anche una serie di racconti, di testimonianze che gli artisti spesso mi hanno consegnato, da Danzen Kiefer a William Kentridge, da Paladino a Orhan Pamuk. Il libro è spesso intervallato anche da racconti in diretta che gli artisti hanno fatto del proprio lavoro. Ho utilizzato prima un'espressione che ricorre spesso nel suo libro, opera mondo. Che cosa significa questa espressione e che significato assume questa espressione rispetto a tante opere mondo del passato? Che differenza c'è fra la Cappella Sistina e, che so, le Torri di Kiefer? Ma il opera mondo è un concetto che era stato sviluppato in un libro che per me è stato decisivo, di Franco Moretti, dedicato alla forma dell'epica nella letteratura, idealmente da Goethe fino a García Márquez. Io sono fortemente convinto che esista una vocazione in qualche modo assoluta, totale, che anima alcuni artisti contemporanei, in modo particolare i 15 autori di cui parlo nel libro. Opera mondo significa sostanzialmente il bisogno di costruire delle cosmogonie contemporanee all'interno delle quali i linguaggi tradizionali, pittura, scultura, smarriscono la propria identità. E siamo di fronte a opere nelle quali appunto le arti visive dialogano con il cinema, dialogano con la letteratura, con l'architettura, con il teatro, con la drammaturgia e con la performatività. Ecco, io sono fortemente convinto che siamo di fronte a una svolta epocale nell'arte. Spesso la storia dell'arte ci dimostra che i primi 15-20 anni di un secolo annunciano quello che poi il secolo negli anni a venire svilupperà. La grande rivoluzione copernicana è che secondo me una serie di artisti avvertono la necessità di portare linguaggi diversi all'interno di un'unica opera, dunque di un'opera mondo. E sono opere plurali, dissonanti, molteplici, che non stanno dentro una cornice, e opere spesso intrasportabili e anche impossibili da, per esempio, sintetizzare o da postare sui social. Queste opere sono raccolte in 7 sale del suo museo senza mura. Secondo lei, di queste sale, qual è quella più vicina alla sensibilità contemporanea? Ma paradossalmente quella che credo possa essere più vicina è la sala nella quale esamino la dimensione della teatralità contemporanea, in cui affronto 3 casi specifici: il Teatro delle Orge dei Misteri di Hermann Nietzsche, che è un po' la ripresa della grande utopia wagneriana dell'opera d'arte totale. Lei prima mi chiedeva rispetto alla Cappella Sistina. Ecco, la Cappella Sistina è stato un tentativo di costruire un'opera mondo, ma gli autori di cui parlo aggiungono alla pura visività il sonoro, la presenza del corpo, la presenza della voce, della drammaturgia, quindi esiste una complessità paradossalmente ancora più accentuata. In quella sala ho inserito anche 2 presenze apparentemente eccentriche. La prima è Björk, ovvero una delle musiciste, artiste visive più sperimentali del nostro tempo. In modo particolare ho scelto un caso che è Biofilia, che non è soltanto un CD, ma è anche un concerto, una serie di videoclip, anche una serie di app legate a ciascuna canzone. E poi ho inserito S. Devlin, che è forse la più grande set designer contemporanea, quella che ha curato le scenografie dei concerti da U2 a Lady Gaga, ai Rolling Stones, ad Adele. In modo particolare ho scelto le scenografie dei concerti dell'ultima tournée degli U2, e l'aspetto che mi ha affascinato è che non si tratta soltanto di spettacolo. Io sono andato a vederlo, questo concerto, quando c'è stato a Milano, e a un primo sguardo avevo solo la sensazione che fosse un grande spettacolo musicale di rock contemporaneo. Poi man mano ho avuto modo di incontrare S. Devlin e mi ha dato uno spunto che mi ha portato a riflettere molto, nel momento in cui mi ha detto che il suo modello di ispirazione è la drammaturgia classica, cioè il teatro greco antico. Ecco, a me è piaciuto leggere le sue scenografie esattamente come un tentativo di rilanciare la grande tradizione del teatro classico antico dentro la contemporaneità. Quali sono le opere che l'hanno più colpita in questo percorso nel metterle insieme? Qual è stata l'opera che l'ha più sorpresa? Ma guardi, le direi 2 opere, la prima e l'ultima. La prima è i 7 palazzi celesti di Kiefer, che è un'opera allestita in Hangar Bicocca tra l'altro non lontano da dove abito, che è un'opera che continua a guardare, a interrogare, e più la guardo più affiorano riferimenti culturali, per esempio a tutta la trattatistica ebraica che Kiefer frequenta, segue e ha riattivato all'interno di quest'opera. E l'altra opera è quella con cui si chiude la mia passeggiata in questo museo senza mura, che è il Carni Arena di Iñárritu, cioè del premio Oscar Iñárritu, che è un'opera presentata nel 2017 a Fondazione Prada. Mi è piaciuto anche che il libro si apra e si chiuda con due installazioni milanesi, sembra quasi, è casuale, ma poi c'è una cabala segreta in questo, ed è questa installazione dedicata alla vicenda di alcuni migranti che provano a attraversare il confine tra Messico e Stati Uniti, in cui chi guarda quelle opere non è soltanto spettatore, ma diventa coprotagonista di un'installazione potentissima fatta attraverso la realtà virtuale, in cui ci si sente insieme con queste anime migranti e disperate. Il tratto di che accomuna un po' tutte queste opere è che non sono soltanto opere da guardare, da contemplare, ma sono opere che chiedono di essere abitate, attraversate, invitano a un'esperienza emozionale e visiva, e dunque sono più opere che vanno sentite che opere che vanno esclusivamente guardate. Lei scrive in una delle parole del XXI secolo, Cronos, questo, prendendo spunto dai suoi artisti, dice che questi offrono una meditazione estrema sul destino dell'arte, che è pensata, aggiunge, come tentativo per trascendere se stessa. E poi cita Gambin: sciolta da sé dei propri contenuti, l'arte ora sembra muoversi nel puro nulla, sospesa in una sorta di diafano limbo tra il non essere più e il non essere ancora. Ecco, queste parole secondo lei non confermano la tesi di chi imputa a molta espressione dell'arte contemporanea un senso di nichilismo, di assoluta esclusiva autoreferenzialità? Allora, io credo che in realtà ci sia non tanto un discorso di nichilismo, ma di difesa dai media. Cioè, la maggior parte delle opere che ho scelto in questo viaggio, in questa passeggiata, sono opere fatte da artisti che come se avessero una doppia vita. Cioè, da un lato sono fortemente radicati dentro il sistema dei media, dentro il sistema del mercato dell'arte. Il caso probabilmente più esemplare è quello di Damien Hirst, ma al tempo stesso avvertono l'esigenza di creare opere che non possano essere commercializzate. Cioè, le opere che ho scelto sono tutte opere impossibili da conservare nella loro interezza, da restaurare nella loro interezza, da trasportare e da fotografare. Cioè, non è possibile, gli artisti oggi tendono a realizzare spesso opere che, direi con una battuta, stanno bene in foto, opere instagrammabili. La maggior parte delle opere che ho scelto non stanno in foto e cercano quasi di adeguarsi al divenire del tempo. Cioè, se per secoli gli artisti hanno avvertito l'esigenza di costruire qualcosa che sopravvivesse a loro, in questo caso mi sono imbattuto in artisti che costruiscono opere che scelgono di adeguarsi al flusso del tempo, dunque quasi di non permanere, di non rimanere, ma di dissolversi. Probabilmente un esercizio di resistenza rispetto al sistema dell'arte che tende a trasformare tutte le opere in merce. Grazie a Vincenzo Trione, autore dell'opera Interminabile. Buona serata. Grazie, buonasera. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. Sono Gianluca Nicoletti e nel mio nuovo podcast In Viaggio con Tommy vi racconterò settimana dopo settimana il viaggio che sto facendo con il mio figlio autistico alla scoperta dello straordinario perduto, perché alla fine solo nell'arte c'è posto per i cervelli ribelli. Potete ascoltare ogni tappa della nostra avventura dal sito di Radio 24. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parlavamo di arte, ma l'arte sarà ancora un prodotto esclusivamente umano? L'intelligenza artificiale ci minaccerà anche in questa sfera che pensavamo forse riservata solo agli uomini? Affronta questo tema un matematico di Oxford, Marcus du Sautoy, nel libro Il codice della creatività. È pubblicato da Rizzoli, 400 pagine, 20 euro, tradotto da Daniele Didero. Du Sautoy è anche un grande divulgatore e ci spiega qui i progressi dell'intelligenza artificiale, del cosiddetto machine learning, la capacità cioè delle macchine non solo di immagazzinare dati ma anche di acquisire capacità per guadagnare autonomamente conoscenze e forme di ragionamento fino a superare le frontiere che è ancora considerata incolmabile, ossia il dare vita a manifestazioni di creatività quali quelle artistiche. Du Sautoy ci illustra l'evoluzione recente di questo fenomeno e ci parla di alcuni esempi significativi, ponendo un limite sui progressi che la macchina potrà compiere, quella rappresentata appunto dalla mancanza di coscienza. Scrive infatti l'autore che finché una macchina non sarà diventata cosciente, non sarà nulla di più di un semplice strumento per estendere la creatività umana. E aggiunge che con l'apprendimento automatico l'intelligenza artificiale impara dalle proprie interazioni, raggiungendo il successo dopo essere passata attraverso diversi fallimenti. E allora, se fosse proprio questo la strada perché l'intelligenza artificiale possa diventare cosciente, Du Sautoy su questo è abbastanza prudente e afferma di non credere che ci sia una qualche fondamentale ragione che ci consenta di escludere che in un futuro più o meno lontano saremo in grado di costruire una macchina dotata di coscienza, e quando ci riusciremo mi aspetto che la coscienza di quella macchina sarà molto diversa dalle nostre. Sono comunque sicuro, scrive, che vorrà parlarci di sé, vorrà dirci che cosa prova, e sarà allora che le arti creative si dimostreranno la chiave per dare a ognuno la possibilità di comprendere come ci si sente nei panni degli altri. Molto più brutale è Meredith Broussard, che insegna data journalism al New York University, che ha scritto La non intelligenza artificiale, come i computer non capiscono il mondo, pubblicato a Franco Angeli, 274 pagine, 25 euro. Tradotto da Jennifer Tiffany Nanetti. Nell'esaminare i limiti dell'intelligenza artificiale, l'autrice parla proprio del machine learning, sulla quale raffredda gli entusiasmi o le paure, come ci spiega qui. Gli scienziati informatici sanno che parlare di apprendimento, learning, di una macchina è una metafora. Significa che la macchina può migliorare nello svolgimento dei compiti programmati, di routine, automatizzati. Non significa che la macchina acquisisce conoscenza o saggezza o capacità di agire, nonostante quello che farebbe supporre il termine apprendimento. Questo tipo di confusione linguistica è alla radice di molte errate convinzioni sui computer. E allora torniamo all'arte, all'arte del Novecento, con uno dei grandi artisti americani, Jackson Pollock, la cui vita e carriera sono presentati in un fumetto, una graphic biography di Onofrio Catacchio, fumettista, illustratore e docente, che ha scritto Pollock, pubblicato da Centauri, 110 pagine, 19,90 euro. Catacchio spiega che la carriera di Pollock si presta bene a una narrazione romanzata, la cui trama, scrive, sta nel piano ordito dalla CIA per dare vita a una visione culturale made in US che fosse attrattiva per gli intellettuali, gli artisti e musicisti occidentali che in quel momento venivano irretiti dalle sirene ideologiche provenienti dal blocco sovietico. E perché proprio Pollock? Ce lo spiegano queste righe. Pollock è la figura ideale per incarnare tale strategia. È un vero cowboy, nato nella stessa città di Buffalo Bill. Il suo cognome non evoca immigrazioni recenti. Le sue opere sono enormi, concettualmente e fisicamente. Rimandano a una visione nutrita dagli spazi sconfinati dell'ovest del paese. In più, Jackson è un uomo selvaggio e incontrollabile. Non ha niente a che fare con gli esangui artisti giunti negli States dall'Europa durante il conflitto mondiale. Jack the Dripper dipinge buona parte dei suoi lavori sul pavimento del fienile della sua casa, a contatto di pulsioni telluriche che entrano in sintonia con le sue, di pulsioni. Danza intorno alla tela barcollando come un ubriaco o come uno sciamano in trance. Si ferma solo quando sente di avere finito, e in quel momento l'opera per lui è terminata. Restiamo in campo artistico, ma cambiamo genere. Passiamo alla musica, di cui parlano due grandi artisti, entrambi giapponesi. Uno è lo scrittore Murakami Haruki e l'altro è il grande direttore Osawa Seiji. Il primo è romanziere, saggista, traduttore, e insieme scrivono Assolutamente Musica. È pubblicato da Einaudi, 306 pagine, 19,50 €, tradotto da Antonietta Pastore. I due furono impegnati in alcuni incontri una decina d'anni fa, durante una lunga convalescenza del maestro, e queste conversazioni sono appunto qui raccolte in 6 capitoli e intervallati con 4 interludi. Qui i due affrontano temi musicali, a partire dal concerto per pianoforte e orchestra numero 3 di Beethoven, e i due autori in questo caso esaminano, commentano e criticano diverse esecuzioni di quel brano. Poi parlano di tanti altri temi, per esempio della mania di collezionare dischi, ma anche del rapporto tra la scrittura e la musica, di quello che è successo negli anni 60, di Ormandy, della musica di Gustav Mahler, di jazz e blues, delle gioie dell'opera. Si parla anche di un celebre concerto del 2011 in cui il direttore diresse la prima sinfonia di Brahms alla Carnegie Hall, e qui il direttore, incalzato dallo scrittore, descrive i particolari di quell'evento, e che ricordiamo con un'altra esecuzione dello stesso Osawa della stessa sinfonia di Brahms. Nel libro lo scrittore confessa di essersi voluto sforzare di restare un ascoltatore dilettante pieno di onestà e di curiosità, perché, aggiunge, forse anche la maggior parte di coloro che leggeranno questo libro sono dilettanti in fatto di musica. Di Haruki Murakami ricordo che Einaudi ha pubblicato qualche mese fa l'edizione integrale dell'Assassinio del Commendatore, 856 pagine, 30 €, tradotto dalla stessa Antonietta Pastore. E a questo punto il confettino. Parliamo di artisti con una collana di Geronimo Stilton a tu per tu con i grandi artisti. Sono usciti a tu per tu con Mozart, a tu per tu con Frida Kahlo, 94 pagine ciascuno, 12,50 €, una serie di incontri che con lo stile divertente del celebre topo faranno conoscere i più piccoli grandi protagonisti dell'arte e non solo. Poi un'altra collana della Nave di Teseo rivolta a lettori ragazzini, la musica spiegata ai bambini, dove sono usciti di Ramin Barami, il grande pianista di origine iraniana, Wolfgang Amadeus Mozart, il genio sempre giovane, 112 pagine, Ludwig van Beethoven, il ribelle, 136 pagine, ciascuno costa 15 €. Nei libri un giovane Sebastian interroga i due grandi musicisti con domande dirette e incalzanti che ricostruiscono la vita e il contributo alla musica dei due giganti. E prima di lasciarci, dato che siamo nel clou del carnevale, vi segnalo di un esperto di musei, nonché studioso delle forme di uso e reinvenzione della storia, dell'archeologia e della cultura postmoderna, tra cui feste e carnevali, e cioè Marxiano Melotti, il libro Carnevalizzazione, società postmoderna, maschere, linguaggi e paure, pubblicato da Progedit, 294 pagine, 30 €. Il libro parte da una domanda che immagino molti di noi si facciano in questi giorni. Ogni anno, ma perché ancora ci ostiniamo a festeggiare il carnevale? L'autore infatti aggiunge che viviamo in una società già carnevalizzata, che ha fatto della festa e del divertimento, così come dell'eccesso e della trasgressione, degli elementi costitutivi e identitari. E per rispondere a questa domanda l'autore parla di maschere, spesso introdotte da personaggi insospettabili, da Tutankhamen a Padre Pio. È occasione anche per parlare di temi importanti quali la retorica politica o le migrazioni, ovvero ancora la paura e i fantasmi. E a questo punto ringrazio Luca Cremonese, redazione, Valeria Bernardi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronico libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.